Il 21 dicembre del 1120, Matilde, la moglie di Gilberto Becket, commerciante di lana, quindi anche benestante, dà alla luce il quarto figlio, battezzato con il nome di Tommaso. L'infanzia di questo bimbo è come quella di tanti, gli piace giocare con gli amici sulle rive del fiume o girovagare per il porto. Ma appena in grado, comincia a dare una mano al papà. Si dimostra fin da piccolo curioso, sveglio. Così Gilberto, il padre, decide di mandarlo a scuola a Merton, allora una cittadina a poche miglia dal centro di Londra, in un collegio di agostiniani. Ricordo che il padre di Tommaso Becket arrivava dalla Normandia. Ma più che da Londra, Tommaso è attratto dalla campagna e dalla sua vera grande passione, che è la caccia. Passa giornate intere a fare la posta ai cervi o ai cinghiali, lo entusiasma cavalcare a perdifiato l'inseguimento dei lupi e delle volpi. Corre anche dei rischi. Una volta, mentre attraversa a cavallo un ponticello sgangherato, l'animale inciampa fra le assi e lo catapulta nel torrente sottostante. Poco più a valle gira la ruota di un mulino. Tommaso non riesce a resistere alla corrente, ma un attimo prima che le pale lo afferrino per ucciderlo, per motivi suoi, il mugnaio non sa cosa sta succedendo, ferma il meccanismo. Il nostro santo è salvo per un soffio e la madre, che è una donna di grande fede, la trasmetterà, come vedremo, a Tommaso, non esita ad attribuire la sua salvezza all'intervento di Dio. Il ragazzo comunque non trascura gli studi. A 16 anni ormai ha imparato tutto quello che Londra può insegnargli e il padre decide che questo figlio merita di continuare a studiare e lo invia nel centro di cultura più prestigioso dell'epoca, cioè a Parigi. Qui arriva nell'autunno del 1136 e la città è letteralmente invasa dagli studenti. Intorno alla chiesa di Notre Dame è addirittura sorto un intero quartiere, il quartiere latino che esiste ancora oggi, ma allora era abitato solo da professori e allievi. Dopo alcuni anni, Tommaso torna a Londra. Siamo circa nel 1140, ma qui, proprio in questi anni, il Regno d'Inghilterra è in preda all'anarchia. Il re Enrico I, che aveva governato per 35 anni con pugno di ferro, affermando il potere della corona e riducendo l'autonomia dei signori, quindi dei baroni e dei vassalli, eccetera, era morto nel 1135 senza eredi maschi. Aveva lasciato solo una figlia, Matilde. E qui il nipote del re, Stefano di Blois, ne aveva approfittato ed era riuscito a farsi incoronare re. In cambio però aveva dovuto fare concessioni e accordare privilegi a tutti quelli che lo avevano riconosciuto, quindi alla Chiesa, ma soprattutto ai baroni che avevano ricominciato a riscuotere le tasse, a battere moneta, a costruire castelli e a farsi soprattutto guerra. Altri però appoggiavano i giusti diritti di Matilde. Insomma, per quasi 20 anni l'Inghilterra fu devastata da continue guerre in cui, in realtà, cari amici, ciascuno cercava di approfittare della situazione per ingrandire i propri domini. E anche la situazione personale di Tommaso è cambiata in quegli anni. La mamma muore e la fortuna del padre è inghiottita dagli incendi e dalle guerre. Ma lui, intelligente, ambizioso, deciso, comincia a cercare la sua strada e trova impiego come amministratore di un ricco mercante. In breve si conquista la stima del padrone e dei suoi amici. Sono uomini importanti con rapporti altolocati. Alla fine uno di essi presenta Tommaso all'arcivescovo di Canterbury, Teobaldo. L'arcivescovo è colpito dall'intelligenza del ragazzo, decide così di assumerlo nel proprio seguito. Prima però, per prepararlo, lo manda nel più rinomato centro di studi giuridici del tempo, che era l'Università di Bologna, perché si faccia una solida preparazione nel campo del diritto. E del soggiorno a Bologna, come d'altro canto a quello di Parigi, abbiamo poche notizie. Ad ogni modo, di ritorno da Bologna, inizia per il nostro santo una brillante carriera. Infatti Teobaldo, l'arcivescovo di Canterbury, ha fiducia in lui e gli assegna anche le rendite di diverse chiese, oltre a incarichi importanti. Il successo però, come sappiamo, attira anche l'invidia e soprattutto il più stretto collaboratore dell'arcivescovo, Ruggero di Pont-l'Évêque, matura nei suoi confronti, nei confronti di Tommaso, un'ostilità, possiamo dire, implacabile, accanita, che durerà, come vedremo, per tutta la vita. Per ora, tuttavia, l'inimicizia non ha conseguenze, perché Ruggero è nominato arcivescovo di York e quindi lascia Canterbury, mentre Tommaso gli succede a Londra come arcidiacono. Pochi giorni dopo, il 25 ottobre del 1154, muore Stefano di Blois, Tommaso ha 34 anni, e il 19 dicembre, nell'abbazia di Westminster, l'arcivescovo Teobaldo di Canterbury incorona re d'Inghilterra Enrico II, proprio il figlio di Matilde che Stefano aveva adottato. E lui è il re riconosciuto da tutti, che tutti speravano avrebbe riportato la pace nel paese. Questo re ha 21 anni, ma è vigoroso, agile, instancabile, ama i tornei, la caccia e i combattimenti. Di temperamento impetuoso, è abituato a essere obbedito, va facilmente in collera e i suoi scoppi d'ira sono terribili. Erede di molti titoli, i suoi domini si estendono largamente al di là della Manica. È vassallo del re di Francia, ma è molto più ricco e potente di lui. È il sovrano più forte dell'Europa occidentale, il re riconosciuto da tutti. Ed è anche l'uomo, cari amici, il cui destino doveva intrecciarsi in modo unico con quello di San Tommaso. Qui, appena giunto in Inghilterra, questo nuovo re, Enrico II, mostra con chiarezza le sue intenzioni. E nella prima lettera, indirizzata ai nobili e a tutti i sudditi, scrive: «Sappiate che in onore di Dio e della Santa Chiesa e per il comune bene di tutto il regno, ho concesso, restituito e con la presente carta confermato a Dio e alla Santa Chiesa e a tutti i miei baroni e conti e a tutti i miei uomini, tutte le concessioni e le donazioni, libertà e libere consuetudini che il re Enrico mio avo, cioè il nonno, ha loro donato e concesso. Nello stesso tempo, scrive il re, annullo e abolisco in nome mio e dei miei eredi le cattive consuetudini che egli ha abolito e annullato». Il tono è conciliante, ma la sostanza è dura, cioè significa che vengono aboliti tutti i privilegi e le libertà che i signori e la Chiesa avevano acquistato durante le guerre, quindi anche sotto Stefano di Blois, diciamo, e che invece il nuovo re è deciso a governare direttamente, come già aveva fatto suo nonno Enrico I. E qui Teobaldo, l'arcivescovo di Canterbury, è preoccupato. Enrico, infatti, cercherà di sottomettere la Chiesa alla sua autorità. Si dovrà però dovrà occuparsi però anche di domini molto vasti questo re, perciò sarà spesso lontano dall'isola e durante la sua assenza toccherà proprio ai suoi funzionari amministrare il paese. Sarebbe importante riuscire, questo è quello che pensa l'arcivescovo Teobaldo, che fra gli uomini fedeli al re, scelti da lui, ci fosse qualcuno fedele anche alla Chiesa, anche per tutelarla. E il nostro Teobaldo pensa subito a Tommaso. E qui, cari amici, pochi giorni dopo l'incoronazione, Enrico II non perde tempo e convoca una grande assemblea per cominciare ad affrontare i problemi del regno. Andiamo a fondo su questo perché ci aiuta a capire anche il ruolo poi di San Tommaso Becket. Tra l'altro il re deve nominare anche un nuovo cancelliere. E il cancelliere è il primo consigliere del re, cioè l'uomo a cui spetta il compito di apporre il sigillo su tutti i documenti reali e di far eseguire tutti i decreti, cioè il funzionario più importante dello Stato. Durante questa assemblea, Teobaldo, l'arcivescovo di Canterbury, trova il modo di presentare a Enrico II Tommaso. Nessuno ha assistito a questo primo incontro e nessuno sa che cosa si siano detti. È certo che il giovane sovrano deve essere stato conquistato dall'intelligenza, dall'acume del nostro santo, perché prima che l'assemblea sia terminata, Tommaso Becket viene nominato dal re il nuovo cancelliere. E subito Enrico II si mette all'opera per ristabilire la sua autorità sul paese, sull'Inghilterra. Per farlo c'è un solo modo, cioè controllare personalmente l'autorità dei funzionari della corona, sostituire le persone corrotte, sottomettere con l'accordo o con le armi i signori ribelli. Così Enrico incomincia a girare l'Inghilterra in lungo e in largo e qui, cavalcando di notte, diffondendo addirittura false notizie sui suoi spostamenti, cambiando improvvisamente itinerari, piomba poi inaspettato in città e villaggi per controllare e ispezionare l'operato di tutti i funzionari. E al fianco del re, giorno e notte, cavalca instancabile Tommaso. E proprio a lui Enrico affida le trattative più delicate con i nobili, con i magistrati. A lui spetta il compito di verificare i documenti che attestano i diritti feudali, spesso contrastanti e non di rado anche falsi. Ma Tommaso non è solo il primo collaboratore del re. Man mano infatti che il tempo passa, questa collaborazione si è trasformata in una vera, profonda e grande amicizia. E appena gli impegni di governo lo permettono, Enrico e il suo cancelliere si lanciano per i boschi in lunghe cavalcate e interminabili battute di caccia col falcone. Insomma, Tommaso è l'uomo più potente d'Inghilterra dopo il re. Però, nonostante questo, tutti i testimoni confermano la semplicità della sua vita personale. Il suo biografo, suo contemporaneo, Guglielmo Fitzstephen, scrive: «In mezzo a questa abbondanza era di un'eccezionale frugalità. Lui, che offriva ai suoi ospiti piatti più ricercati, si contentava di una carne di modestissima qualità e beveva solo dell'acqua insaporita con finocchio o qualche spezia, secondo l'uso del tempio. Eccettuata la caccia, alla quale si dedicava meno spesso di quanto si lasci supporre, si accontentava come solo passatempo del sottile piacere che gli procuravano le combinazioni e i calcoli del gioco degli scacchi». E qui dobbiamo anche ricordare che questo santo ha avuto una madre meravigliosa che gli ha inculcato la fede cristiana, gliel'ha fatto crescere con la preghiera. E questo Tommaso l'ha sempre avuto nel cuore, ha sempre avuto questo richiamo e questo desiderio di essere vicino al Signore. E, possiamo dire che le sue qualità umane non risentirono quindi di questo questa rapida carriera ai vertici dello Stato. La sua generosità era proverbiale e tutti sapevano che si poteva contare sulle ricche elemosine del cancelliere d'Inghilterra. A questo proposito, cari amici, osserverà Edoardo Grimm. Edoardo Grimm avrà un ruolo fondamentale perché oltre a essere sarà un monaco, collaboratore e assistente di Tommaso, sarà l'unico monaco vicino a lui quando Tommaso sarà assassinato e morirà, verserà il suo sangue proprio per difendere la Chiesa. Lo stesso Edoardo sarà poi ferito e lui stesso ci testimonierà gli ultimi momenti, come vedremo. Ma intanto è anche un suo biografo, quindi ci dice Edoardo: gli oppressi e i deboli trovavano sempre libero accesso presso di lui, cioè presso Tommaso. La causa della vedova arrivava facilmente fino al cancelliere. L'orfano e il povero non invocavano mai invano la sua giustizia e la sua protezione. E questa non è solo una frase fatta, infatti Tommaso spingeva la carità fino ad amare i suoi confratelli. Per esempio, Nicola, che era arcidiacono di Londra, era in corso nella collera di Enrico II. Il re, ci viene detto, lo cacciò dalla sua casa con tutti i parenti, vi fece apporre i sigilli e la confiscò. Insomma, l'aveva messo in mezzo a una strada. Ma il buon cancelliere non ebbe pace finché non riuscì ad ottenere una riconciliazione e gli fece restituire tutti i beni. Ci viene detto ancora, dai suoi biografi, che la sua onnipotenza e la fiducia del sovrano, che con questa fiducia e questa sua posizione, Tommaso avrebbe potuto trattenere le canoniche e i benefici che si rendevano vacanti nei villaggi e nei castelli, senza che nessuno neppure osasse pensare di opporsi a lui, perché opporsi a lui voleva dire opporsi al re. Ma egli, ci viene detto, era troppo disinteressato ed animo troppo grande per togliere a chierici e preti poveri l'occasione di ottenere benefici che fossero loro convenienti, quindi che lo aiutassero. E Tommaso non dimenticò mai che era anche arcidiacono, non era ancora sacerdote, lo diventerà dopo. La sua fede era però grande, cari amici, e i suoi costumi irreprensibili. Ci viene ancora detto: in mezzo a tutti gli onori del secolo, il cancelliere coltivava un vivo senso di religiosità e di umiltà. Conformandosi alla devozione del tempo, si faceva somministrare quotidianamente la disciplina, cioè si faceva frustare. Riceveva la penitenza sulle spalle nude dalle mani di Rodolfo, priore della Santa Trinità, quando si trovava nei dintorni di Londra. Oppure dalle mani di Tommaso, un altro sacerdote, un amico fedele prete di San Martino, quando era più vicino a Canterbury. E ancora lo stesso suo biografo, Guglielmo Fitzstephen, ci informa di aver saputo da Roberto di Merton, confessore di San Tommaso, che la sua virtù all'occorrenza poteva essere messa a dura prova. Perché questo? perché il re cercava tutte le occasioni per cercare di coinvolgerlo in quelli che erano i suoi malaffari, quindi possiamo immaginarlo. E qui, di rigida morale, Tommaso desiderava che anche gli uomini, non soltanto lui, ma anche gli uomini del suo seguito vivessero come lui. C'è un aneddoto interessante a questo proposito che ci racconta sempre Stephen, e dice: un chierico della cancelleria, Riccardo d'Amblì, aveva messo gli occhi su una donna sposata. La situazione era quanto mai favorevole, il marito era partito per un viaggio oltremare. Riccardo, lasciato passare qualche tempo, fece credere alla donna, alla sposa abbandonata, che il marito era morto, e senza troppe difficoltà ne approfittò. Tommaso lo venne a sapere e ne fu talmente indignato che, senza alcun riguardo, fece rinchiudere immediatamente Riccardo nella Torre di Londra, dove lo fece tenere ai ceppi per lungo tempo. Ma proprio la sua posizione particolare e delicata, quindi diciamo che teneva in equilibrio un po' tutto tra la Chiesa e il re, proprio per questa situazione Tommaso si trova coinvolto proprio nelle contese fra il re da una parte e la Chiesa dall'altra. Da una parte i seguaci della riforma gregoriana, poi lo vedremo cos'è, vogliono mantenere la libertà conquistata, cioè le libertà conquistate durante il regno di Stefano di Blois, praticamente il re prima di Enrico II, e affermare il legame della Chiesa d'Inghilterra con il Papa e difendere quindi il diritto di ricorrere a Roma, quindi al Papa, in caso di conflitti. Dall'altra invece Enrico non ha nessuna intenzione di riconoscere sul suolo inglese un'autorità diversa dalla sua e intende tornare a esercitare un controllo rigoroso su tutta la vita ecclesiale. E qui soprattutto, cari amici, gli interessa al re decidere le nomine dei vescovi e degli abati. E in mezzo sta proprio San Tommaso, insieme uomo dell'arcivescovo Teobaldo, ma anche del re, e cerca di districarsi in questo scomodo ruolo, con intelligenza e diplomazia. Arriviamo nel 1159, in occasione dello scisma che oppone il Papa legittimamente eletto, cioè Alessandro III, al candidato dell'imperatore Federico Barbarossa, che era Vittore IV, l'antipapa praticamente. Enrico si schiera con Alessandro III. E anche il Concilio dei Vescovi di Normandia si dichiara a favore del Papa legittimo, ma lo fa senza attendere il benestare del re di Enrico. E qui ancora una volta il re vede scavalcata la propria autorità e decide di riaffermarla. Quindi ordina che per vendetta sia incendiata la casa del vescovo di Le Mans. Tommaso conosce bene il re e sa che finché è in collera non c'è niente da fare. Raccomanda però ai soldati di prendersela comoda. Impieghino 4 giorni per arrivare a Le Mans anziché i 2 che sarebbero sufficienti. Nel frattempo l'ira del re si placa. Il cancelliere riesce a strappargli la grazia, l'affida a un corriere e gli dà l'ordine di galoppare giorno e notte. Insomma, alle porte della città il cavaliere raggiunge gli altri messaggeri e la casa del vescovo è salva. Questo è un esempio di come San Tommaso Becket cercava di portare equilibrio da una parte e dall'altra. E proprio in questo modo Tommaso riesce anche per diverso tempo a difendere la libertà della Chiesa, soprattutto per quel che riguarda la nomina dei vescovi e degli abati, proprio questo grazie all'ascendente che ha sul re e, dobbiamo dirlo, alla pazienza e alla prudenza con cui sa presentargli le cose. A qualcuno veramente non piace, vorrebbe da lui un'opposizione più aperta, ma finché ci saranno spazi per la trattativa, il nostro santo cercherà con ogni mezzo di percorrerli. Poi darà lui l'esempio di come saprà difendere gli interessi della Chiesa. Arriviamo il 18 aprile del 1161, quando Teobaldo, arcivescovo di Canterbury e possiamo dire grande protettore anche di Tommaso, muore. Enrico II e il suo cancelliere sono raggiunti dalla notizia in Francia, impegnati nella guerra contro il conte di Tolosa. Nella mente del re l'idea è proprio di fare eleggere Tommaso, e il suo uomo di fiducia, il suo migliore amico, che diventa poi capo della Chiesa d'Inghilterra, pensa quale miglior appoggio per il suo regno. Ma occorre agire con discrezione, infatti un suo intervento diretto rischierebbe di suscitare l'opposizione dei chierici, quindi dei prelati, più legati alla riforma gregoriana e gelosi quindi dell'autonomia della Chiesa. Ecco, ma approfondiamo un attimo questo fatto della riforma gregoriana che abbiamo visto anche prima. Praticamente di cosa si tratta? Quando nel 1073 Ildebrando di Soana diviene papa con il nome di Gregorio VII, dichiara il papa che il potere di nominare i vescovi spetta solo al vescovo di Roma, quindi al papa. Si scatena così, cari amici, una dura lotta con l'imperatore che gli storici chiamano lotta per le investiture. La lotta dura a lungo e con fasi alterne. Nel 1122 il concordato di Worms stabilisce che al papa spetta il diritto di nominare i vescovi e all'imperatore quello di riconoscere loro il potere temporale sulla propria diocesi. In realtà poi è solo un compromesso e l'imperatore e i re cercheranno ancora a lungo di controllare le nomine dei vescovi e poi vedremo perché. Ma intanto Enrico, per evitare un coinvolgimento diretto, decide di restare in Francia e manda a Londra il cancelliere, quindi Tommaso, accompagnato dal ministro della giustizia Riccardo di Lucy. Questi ha l'ordine di fare di tutto per favorire l'elezione di Tommaso, cercando però di non urtare il sentimento di indipendenza del clero. Sbarcati in Inghilterra, Riccardo esprime ai monaci di Christchurch l'intendimento del re di favorire, comunque di che vedeva di buon occhio l'elezione di Tommaso. Insomma, l'invito era abbastanza esplicito. E il 27 maggio del 1162, nell'abbazia di Westminster, si riuniscono tutti coloro che hanno diritto a partecipare all'elezione del nuovo prelato. Sarà per il consiglio del re, sarà per la stima di cui comunque Don Tommaso gode, viene eletto arcivescovo di Canterbury all'unanimità. Veramente solo il vescovo di Hereford, Gilberto Folliot, protesterà per questa nomina, ma non lo farà però in pubblico, accusando il cancelliere di aver ottenuto la carica soltanto per volontà del re. E Gilberto è un uomo colto, autore di libri di teologia, famoso per la sua condotta austera, ma sono in molti a pensare che le critiche fatte alle elezioni di Tommaso siano dettate più dalle sue ambizioni deluse che dalla preoccupazione per il bene della Chiesa. Ad ogni modo, Tommaso si è guadagnato un altro nemico, come se non ne avesse già abbastanza. Il giorno seguente, tutti i partecipanti all'elezione si dirigono verso Canterbury. La notizia della nomina di Tommaso li ha preceduti e la gente si fa incontro al nuovo arcivescovo, lo saluta, lo precede, lo segue, lo accompagna festanti fino in città. I londinesi amavano Tommaso proprio per questa sua generosità, questo suo ascoltare i poveri. Insomma, il 2 giugno viene ordinato anche sacerdote e il giorno dopo riceve l'unzione episcopale. E dentro e fuori dalla cattedrale c'è una folla variopinta di chierici, monaci e semplici fedeli che si accalcano per vedere e toccare il nuovo arcivescovo, l'uomo che amano, che stimano, salito alla massima carica della Chiesa inglese. Enrico II esulta, infatti con l'elezione apprimata del suo cancelliere, vede realizzato il suo progetto. Quindi qual è il suo progetto? La sottomissione della Chiesa cattolica al suo potere. Ma il re, dicevamo cari amici, ha fatto male i suoi conti. Dal momento della consacrazione episcopale, infatti, Tommaso si dedica solo ed esclusivamente al bene della Chiesa. Possiamo dire che era già una persona indirizzata a una sua spiritualità, a un suo cammino. Dopo l'elezione, dopo la consacrazione episcopale, è come se Gesù gli allargasse di più il cuore. E anche le testimonianze stesse ci dicono di un Tommaso è quasi cambiato, ancora più radicato nel suo colloquio interiore con il Signore, nel suo cammino spirituale. E proprio per cominciare, muta anche radicalmente le sue abitudini di vita. Ai suoi ospiti offre ancora splendidi banchetti, ma lui si accontenta di pasti frugali. Lascia i libri che egli ama di diritto e di filosofia su un cassetto e comincia invece a studiare la Sacra Scrittura e i padri della Chiesa. Se già prima era generoso nelle elemosine, ora prende l'abitudine di lavare personalmente i piedi dei poveri che vengono al monastero. Sotto gli abiti episcopali porta il cilicio e rinuncia definitivamente a tutto ciò che gli appare in contrasto con la sua carica, comprese quelle che erano le sue amate battute di caccia. Non solo, pochi mesi dopo, Enrico II, che è ancora in Francia, riceve da Canterbury un pacchetto. C'è dentro il sigillo reale. Tommaso ha rinunciato alla carica di cancelliere per essere totalmente solo arcivescovo di Canterbury. Ma questo però vuol dire anche che non è più a fianco del re, quindi si occuperà soltanto della Chiesa. E qui il re esplode in una delle sue collere furibonde. Si sente tradito non solo da un uomo che deve a lui la posizione che occupa, ma anche da quello che considera il suo migliore amico. Lui vedeva questa cosa soltanto in virtù del fatto di poter, tramite Tommaso, comandare la Chiesa. Quando rientra in Inghilterra, Tommaso è comunque lì ad attenderlo al porto e lo accoglie con devozione. Per un momento Enrico pensa che gli avvenimenti possano ancora riprendere a svolgersi secondo il suo disegno. L'accordo però non può durare. Sono in gioco cari amici due elementi che non possono sussistere insieme: il potere dello Stato e l'indipendenza della Chiesa. E lo scontro inizia quando Enrico decide di abolire il diritto dei chierici di essere giudicati solo dai tribunali ecclesiastici, quindi anch'essi devono essere sottomessi alla giustizia del re. Il 1 ottobre del 1163, Tommaso ha 43 anni, in questa data Enrico II convoca un'assemblea dei prelati e dei baroni nel Palazzo Reale di Westminster e qui attacca i privilegi della Chiesa nel campo della giustizia e chiede ai vescovi di impegnarsi con il giuramento a rispettare le antiche consuetudini. Le antiche consuetudini, cari amici, risalivano ai secoli dell'Alto Medioevo e prevedevano il controllo del re sulla nomina dei vescovi della Chiesa inglese. Cos'era successo? Che con il crollo dell'impero romano d'Occidente, nella maggior parte dei territori che ne avevano fatto parte, segue un periodo di anarchia, disordine e violenze. Con il venir meno dell'autorità civile, proprio i vescovi e i monasteri diventano gradualmente i punti di riferimento, quindi le uniche autorità a cui rivolgersi per tutte le necessità della vita di ogni giorno. Accade così, cari amici, che vescovi e abati si ritrovano a svolgere anche i compiti dell'amministrazione civile, quindi occuparsi delle strade, riscuotere le tasse, amministrare addirittura la giustizia. Insomma, a poco le cariche di vescovo e di abate diventano ambite anche per uomini di poca o nessuna fede cristiana, ma per il potere e la ricchezza che col tempo si sono legati. E anche quando Carlo Magno ripristina l'autorità imperiale, pensa bene di utilizzare abati e vescovi come suoi funzionari e riesce a farsi riconoscere il diritto di nominarli, visto che ormai in molti casi questo titolo ecclesiastico porta di fatto con sé anche quello di signore del luogo, quindi il vescovo è anche quello che comanda quella zona, quella città. In questo l'imperatore approfitta, dobbiamo dire, anche della debolezza del Papa, allora, che ha un bisogno assoluto del suo appoggio. E qui anche i successori di Carlo conservano quindi questo diritto e ne usano per lo più per distribuire le cariche secondo i propri interessi. Quindi la nomina dei vescovi da parte dell'imperatore è però evidentemente una minaccia mortale, possiamo dire, per la vita della Chiesa, che vede le sue più alte autorità scelte da un potere che è completamente estraneo alla Chiesa stessa. Ed era questo, cari amici, il motivo per il quale Enrico voleva lui nominare vescovi e abati, ma comunque i vescovi si consultano e decidono di giurare fedeltà al sovrano con la formula però purché sia salvo l'onore di Dio e del mio ordine. L'espressione significa che la fedeltà al re non è incondizionata. I vescovi si riservano la possibilità di disobbedire a quelle leggi che fossero in contrasto con le leggi di Dio e della Chiesa. Il re non accetta, pretende un giuramento senza restrizione, ma tutti i vescovi tranne uno rifiutano e il sovrano se ne va furibondo, ma non è tipo da rendersi così facilmente come abbiamo visto. Ha perduto la prima battaglia, ma è ben deciso a vincere la guerra. e il primo aiuto gli arriva proprio da alcuni dei presunti avversari. Non tutti i vescovi hanno il coraggio di Tommaso, molti preferirebbero una pacifica convivenza col re, e in testa c'è proprio quel famoso Ruggero di Pont-l'Évêque e Gilberto Folliot, i due vecchi nemici di Tommaso. Ma le difficoltà non vengono solo dal fronte interno. Come abbiamo accennato, l'imperatore Barbarossa aveva nominato un antipapa e Alessandro III ha assoluto bisogno dell'appoggio del re d'Inghilterra. Così scrive a Tommaso esortandolo a non esasperare i contrasti per non rischiare che Enrico II si schieri tra i sostenitori dello scisma. E di fronte alla richiesta del papa, Tommaso obbedisce, si reca dal re e gli giura fedeltà senza la formula «salvo l'onore di Dio». Pensa con questo sacrificio di aver risolto il problema, ma si sbaglia. A Enrico infatti questo non basta. Come l'offesa è stata pubblica, così deve essere la riparazione. Tommaso dovrà ripetere il suo omaggio al cospetto di tutti i vescovi e i baroni del regno. È la fine di gennaio del 1164. Enrico vuole risolvere la questione e mostrare a tutti i suoi sudditi che cosa succede a chi osa sfidare la sua autorità. In prima fila, ad assistere alla pubblica umiliazione di Tommaso Becket, c'è Ruggero, vescovo di York, e Gilberto, ormai vescovo di Londra. Accanto a loro i baroni che avevano dovuto sottomettergli quando era cancelliere, e poi tutti quei vescovi e quegli abati che non sono ostili a Tommaso, ma che, insomma, quella sua ostinazione nell'opporsi a un re che ha dimostrato di voler proteggere la Chiesa, secondo loro, non la capiscono proprio. Intanto i soldati del re si aggirano numerosi e minacciosi, mentre i pochi vescovi rimasti fedeli a Tommaso lo scongiurano di cedere, per evitare che l'ira di Enrico II si abbatta sulla Chiesa. Qui Tommaso, insomma, l'orgoglio gli suggerisce di resistere a qualunque prezzo, anche perché è certo di essere dalla parte della ragione, ma più che il suo orgoglio, cari amici, Tommaso ha a cuore soprattutto il bene della Chiesa e del popolo di Dio. Decide allora per quello che gli sembra il minor male. Di fronte all'assemblea riunita, promette che rispetterà le antiche consuetudini del regno senza riserve. Il re ha vinto, ma Enrico II non è contento, decide di sfruttare la vittoria fino in fondo, perlomeno prova. A un suo cenno entra un funzionario portando dei fogli sui quali queste antiche consuetudini sono state messe nero su bianco. Enrico chiede all'arcivescovo di approvarle apponendovi il suo sigillo, ma Tommaso rifiuta. Rifiuta, cari amici, perché ha capito che quel documento, che oggi tutti i libri di storia chiamano le Costituzioni di Clarendon, quel documento sancisce la fine della libertà della Chiesa. Vi è scritto infatti, fra l'altro, che tutte le questioni riguardanti le proprietà della Chiesa saranno giudicate e decise solo dal re, che i chierici non saranno più giudicati dai tribunali ecclesiastici, ma da quelli reali, che nessun chierico potrà lasciare l'Inghilterra senza il permesso del re. Ma l'ultimo punto è capitale. Infatti, intralciando i rapporti con Roma, Enrico II intende staccare di fatto la Chiesa inglese dalla Chiesa universale e farne così più facilmente uno strumento nelle proprie mani. Per tutto questo, cari amici, Tommaso rifiuta di apporre sul documento il sigillo dell'arcivescovo di Canterbury. Dobbiamo dire che il re in realtà si aspettava questo rifiuto. Per il momento non reagisce, ma sta preparando le sue mosse. È sempre in corso lo scisma sostenuto da Barbarossa, e anche se è cambiato il papa, perché Vittorio IV è morto e c'è il nuovo antipapa Pasquale III, e Enrico fa capire chiaramente al papa che è pronto, se il conflitto non si risolve, a schierarsi a favore del suo avversario. È un rischio grave. E Alessandro III scrive ancora a Tommaso e gli scrive: «Sforzatevi di essere gentile con il re in tutto e per tutto, salvaguardando però l'onore della Chiesa. Adoperatevi senza tregua per rientrare nelle sue grazie e nella sua amicizia». Nel frattempo cerca di accontentare il re accettando di nominare legato pontificio, cioè ambasciatore del Papa in Inghilterra, il candidato che Enrico II, che lo stesso re ha proposto, che è il famoso Ruggero di Pont-l'Évêque. Convinto in questo modo di aver tolto a Tommaso l'appoggio del Papa, il re si prepara a sferrare l'attacco decisivo. L'occasione arriva poco dopo, nell'estate dello stesso anno. Infatti un vassallo del re rivendicava un territorio che era feudo della chiesa di Canterbury. Il re, appellandosi alle costituzioni di Clarendon, dichiara che giudicherà lui stesso la questione. Tommaso non desidera, non approva questo atteggiamento, perché non sta a re giudicare questa cosa. E comunque Enrico II lo convoca davanti al suo tribunale, ma Tommaso rifiuta di recarsi di persona e si fa rappresentare da 4 cavalieri. Il re giudica l'assenza una grave disobbedienza alla sua autorità, quindi coglie l'occasione, e ordina che Tommaso sia chiamato a risponderne davanti a tutti i grandi del regno convocati a Northampton il 6 ottobre. Questa volta il nostro santo obbedisce. Giunto in città è costretto ad attendere 2 giorni fuori del castello. Quando finalmente viene ammesso nella sala dove sono riuniti vescovi e baroni, viene accusato di tradimento per non essersi presentato alla prima convocazione. Tutti i suoi beni sono confiscati e assegnati alla corona, ma è solo l'inizio. Nei 2 giorni seguenti è accusato di essersi appropriato indebitamente di rendite che non gli spettavano. Praticamente gli dicevano di aver rubato soldi allo Stato. Insomma, per qualche giorno si intrecciano trattative, ma l'arcivescovo rimane fermo nella sua posizione. Non accetterà il giudizio del re e presenterà appello al Papa. E di fronte a questa irriducibilità di Tommaso, l'ira di Enrico II cresce sempre più. Il giorno 13 Tommaso compare di nuovo davanti alla corte. Al mattino ha celebrato la messa di Santo Stefano. Gli viene chiesto per l'ennesima volta di sottomettersi al re, ma per l'ennesima volta Tommaso risponde, e qui ci dice la sua biografia, risponde così: «Fratelli, cavalieri e baroni del re nostro Signore, anch'io sono legato a lui dal giuramento di fedeltà. Devo al re fedeltà e obbedienza, fatto salvo l'onore di Dio e del mio Stato. Per questo ho fatto appello a Roma e metto la mia persona e la chiesa di Canterbury sotto la protezione di Dio e del Papa». Possiamo immaginare Enrico II, fuori dalla grazia di Dio, gridando e imprecando, intima i presenti di condannare Tommaso come traditore della corona, se non vogliono essere considerati traditori essi stessi. I vescovi non hanno il coraggio di disubbidire al re, ma non vogliono neanche tradire Tommaso. E qui c'è lo sconvolgimento. Ruggero di Pont-l'Évêque fugge. Tutti gridano, molti piangono. Fra la confusione e l'agitazione generale, l'assemblea dei grandi del regno dichiara Tommaso Becket ribelle e traditore del re e ordina il suo arresto. E tutto questo, cari amici, succede perché lui desidera proteggere la Chiesa. Comunque, ma vedremo adesso cosa succede. Ai soldati che gli si avvicinano per eseguire l'ordine, Tommaso spiega calmo che quello che stanno facendo, cioè l'arresto, è illegale. E quindi i soldati esitano. Approfittando della loro incertezza e della confusione, esce dal castello. Fuori si accalca la gente che alla vista dell'arcivescovo si entusiasma e lo scorta festante fino ai suoi alloggi. I soldati non hanno il coraggio di inseguirlo in mezzo alla folla. Per questa volta la scampata, ma ormai è chiaro che la rottura è definitiva. Nella notte decide di giocare il tutto per tutto. Deve riuscire a portare assolutamente la sua causa davanti al Papa. La stessa sera, dopo aver cantato con pietà, Tommaso raduna intorno a 6 pochi di cui si può fidare. Qualcuno riesce non si sa come a recuperare 4 cavalli e lui, con questi compagni, fugge. Per tutta la notte galoppano nella campagna fra i boschi su strade ridotte a torrenti di fango, inzuppati fino alle ossa, pioveva a dirotto. Continuano così per una settimana, nascosti di giorno in qualche monastero, cavalcando di notte, nel freddo e nella pioggia dell'autunno inglese, con la paura di venire e di essere riconosciuti, di essere traditi. Finalmente i 4 raggiungono la costa. Dopo qualche giorno di ricerche infruttuose, riescono a trovare una nave che li imbarca senza fare troppe domande. Il 2 novembre Tommaso sbarca sul continente. Ma quello, cari amici, che mette piede a terra in Fiandra è un uomo sfinito. Il cilicio sempre ai fianchi, i piedi insanguinati, Tommaso si trascina a stento. A sera chiede ospitalità in una casa di contadini e il giorno seguente lo stesso contadino conduce i 4 fuggiaschi a un monastero lì vicino Pochi giorni dopo l'arcivescovo è al sicuro nell'abbazia di Saint-Omer, da dove può affidarsi alla protezione di Luigi VII, re di Francia. E proprio qui, alla sua corte, c'è anche Alessandro III, il Papa, che si è rifugiato allo scoppio dello scisma. Tommaso può così realizzare il suo desiderio, quindi vedere il Papa ed esporgli di persona il suo caso. Appena introdotto alla presenza del pontefice, San Tommaso gli si getta ai piedi e gli dichiara innanzitutto la propria fedeltà. Poi fa estrarre da un chierico il rotolo delle Costituzioni di Clarendon, chiede che venga letto e lo commenta articolo per articolo, mostrando il pericolo reale che rappresentano per la libertà della Chiesa. Da ultimo espone quella che considera la vera ragione di tutti i guai. Dio, dice lui, permette che la Chiesa inglese sia tribolata perché invece di qualche pio asceta ha scelto come suo primate lui, Tommaso, un uomo di mondo. Per di più, dice, la sua elezione è stata certamente favorita dalla volontà del re. Per questo, San Tommaso Becket rimette la sua carica nelle mani del Papa. Per qualche giorno Alessandro III riflette sulla proposta di Tommaso. Molti gli consigliano di accettare le dimissioni e di risolvere così il problema. Alla fine però il Papa annuncia la sua decisione. Cioè, gli articoli delle Costituzioni di Clarendon verranno dichiarati, per la maggior parte, nulli e illegittimi, mentre l'elezione di Tommaso alla sede di Canterbury viene riconfermata pienamente, valida e legale. Il Papa approva pienamente l'operato del suo vescovo. Ma la lotta è appena agli inizi. Tommaso ora non è che un esiliato. Il 30 novembre entra nel monastero di Pontigny, dove resterà per 2 anni, ospite dei monaci cistercensi. Ma intanto Enrico II organizza le contromosse. Per prima cosa attacca duramente tutti i sostenitori di Tommaso. Ordina che... vedete qui la persecuzione contro la Chiesa e contro chi difende l'onore della Chiesa. Ordina il re che i beni di tutti i chierici che lo hanno accompagnato in Francia siano confiscati, che ogni forma di appello a Roma da parte di chiunque sia impedito e che i beni della Chiesa di Canterbury siano incamerati dallo Stato. Ma Ranulfo di Broc, l'uomo che ha il compito di far eseguire gli ordini, va oltre. Infatti tutti coloro che sono accusati o sospettati di aver avuto rapporti amichevoli con l'arcivescovo, pensate, vengono espulsi dall'Inghilterra. Insomma, nel giro di poche ore decine di uomini, donne e bambini vengono cacciati dalle proprie case e costretti a imbarcarsi sulle prime navi che lasciano l'isola. Saranno accolti in abbazie e monasteri fedeli al Papa in tutta Europa. E il contrattacco del sovrano inglese continua anche sul piano diplomatico. Lo scisma infatti non accenna a rientrare ed Enrico scrive addirittura all'imperatore, cioè a Barbarossa, e scrive: «È da molto tempo che desidero allontanarmi da Alessandro III e dei suoi infidi cardinali che difendono contro di me il traditore Tommaso, un tempo arcivescovo di Canterbury. Se tutte le mie richieste non verranno accolte, né io, né i miei baroni, né il mio clero» — beh, il clero lo dice lui, poi bisognerà vedere — «rimarremo nell'obbedienza al Papa, ma combatteremo apertamente lui e i suoi sostenitori». Il Papa è preoccupato, ma non rinuncia a difendere il suo vescovo. Decide anzi di nominarlo legato pontificio per l'Inghilterra, quindi ambasciatore del Papa per l'Inghilterra. E questa nomina mette nelle mani del nostro santo un'arma formidabile. Come rappresentante del Papa ha ora il potere di comminare le pene canoniche più gravi, come la scomunica e l'interdetto. E qui, forte dell'appoggio del Papa, Tommaso decide che è giunto il momento di passare all'azione. E per farlo sceglie uno dei santuari più venerati della Francia, allora, la chiesa di Santa Maria Maddalena a Vézelay, punto di partenza per il grande pellegrinaggio di Santiago di Compostela, meto ogni anno allora di migliaia e migliaia di pellegrini. Il 12 giugno del 1166, Tommaso ha 46 anni, davanti a una folla sterminata, l'arcivescovo, rivestito solennemente dell'insegno del suo stato, annuncia dal pulpito le proprie decisioni. Cioè, tutti coloro che hanno appoggiato la politica del re d'Inghilterra, tutti coloro che si sono dichiarati fedeli all'imperatore e al suo antipapa, tutti coloro che hanno messo le mani sui beni della Chiesa di Canterbury, tutti coloro che hanno applicato le costituzioni di Clarendon sono scomunicati. E qui la scomunica è l'esclusione dalla comunione della Chiesa, ma il fatto è che nel Medioevo, cari amici, era una sanzione gravissima, visto che l'appartenenza alla società coincideva in buona sostanza con l'appartenenza alla Chiesa. Quindi essere esclusi dalla Chiesa significava allora anche essere messi al bando della società civile. Se veniva scomunicato un re o un signore, i sudditi e i vassalli, pensate, erano sciolti dall'obbligo dell'obbedienza, pensate un po'. E le parole di Tommaso fanno sensazione, attraversano la Francia con la rapidità di un fulmine. Enrico, che si trova anche egli in Francia, ordina subito che tutte le coste inglesi siano pattugliate per impedire che la notizia arrivi in Inghilterra, ma naturalmente era impossibile. Scrive allora al superiore dei cistercensi: se continueranno a dare ospitalità a Tommaso, ne faranno le spese tutte le abbazie dell'ordine in Inghilterra. Il nostro santo è costretto ad abbandonare Pontigny e cerca rifugio nel monastero benedettino di Saint-Colombe a Sens, all'interno dei possedimenti del re di Francia. E qui la lotta si fa sempre più dura, eh? E l'ostilità di Enrico II si dirige ora anche contro il re di Francia stesso, colpevole di continuare a proteggere Tommaso. Insomma, per vari motivi, nella primavera del 1168 scoppia la guerra. Verso la fine dell'anno si arriva a una tregua e si stabilisce che i due re si incontrino nei pressi del castello di Montmiral il giorno dell'Epifania del 1169, e sarà presente anche Tommaso. E qui, nei giorni che precedono l'incontro, tutti, amici e nemici, tempestano il nostro santo di suppliche perché si sottometta al re. Non aspetta altro che il suo omaggio senza riserve, gli dicono, per rendergli di cuore tutto quello che gli aveva tolto. E tutti si aspettano, dall'atto di sottomissione di Tommaso, sia la fine dell'esilio che il ritorno della pace per la Chiesa d'Inghilterra. Ma a che prezzo sarebbe stata questa pace? L'arcivescovo è combattuto. Desidera da una parte con tutto il cuore la pace e la tranquillità per la Chiesa, ma non è disposto per ottenerla a sacrificare l'essenziale. E un atto di sottomissione senza condizioni significherebbe rinunciare, in cambio della protezione reale, alla libertà. Insomma, la mattina del 7 gennaio Tommaso viene introdotto alla presenza dei re, sia del re di Francia che d'Inghilterra. La sala del castello è gremita, sono presenti cavalieri, sacerdoti, chierici, baroni, tutti in silenzio attendono queste sue parole. Sotto gli occhi di tutti, Tommaso si getta in lacrime ai piedi di Enrico II. Il re lo rialza, lo abbraccia da vecchio amico. Tommaso gli chiede perdono e, come già davanti al Papa, prende su di sé la responsabilità di tutto quello che è accaduto. Non si sente degno della carica che la Chiesa gli ha dato come arcivescovo di Canterbury, e come il re stesso è stato mezzo di Dio per farlo eleggere arcivescovo di Canterbury, pensate. E dice al re: qui dunque, Signore, alla presenza del nostro Signore re di Francia, dei vescovi, dei principi e di tutti quelli che ci circondano, mi rimetto alla vostra comprensione e alla vostra volontà di regolare la nostra controversia, cioè di definirla, insomma, di chiuderla. E il silenzio, ci viene detto, è assoluto. Tutti sono pronti a esultare per la fine della lotta, quando risuonano invece chiare e forti le ultime parole di Tommaso, che dice: il tutto purché sia salvo l'onore di Dio. E questo fa scattare il fine mondo. Enrico dà in escandescenze, urla, minaccia. Il re di Francia è indignato. Tutti parlano fra loro, gridano, lanciano insulti all'indirizzo di Tommaso, che viene condotto fuori dalla sala. Era già martire in quel momento lui. Intorno a lui un gruppetto di prelati, chierici, cardinali lo incitano ancora una volta a tralasciare quella piccola, secondo loro insignificante, formula che ha il potere di far infuriare il re. Ma Tommaso non risponde, non reagisce, non alza neppure la testa, ci viene detto. Sa benissimo che in quelle poche parole si gioca tutto. Significano quelle poche parole che l'autorità del re non deve essere assoluta. C'è una legge, anzi più grande, che anche i re debbono rispettare, ed è la legge di Dio, rappresentata in terra dalla sua Chiesa. Capisce perfettamente che proprio questo Enrico II non può tollerare. Lui si professa buon cristiano, Enrico II, e amico e protettore della Chiesa, ma non è disposto a riconoscere nessuna autorità al di sopra della sua. Insomma, dopo l'episodio di Monmirale, la lotta riprende più dura. Tutti i tentativi di pacificazione si rivelano inutili e la Domenica delle Palme del 1169, dall'abbazia di Clairvaux, Tommaso scomunica il vescovo di Londra Gilberto Folliot e quello di Salisbury insieme ad altre personalità della Chiesa e del Regno d'Inghilterra. Enrico risponde annunciando che farà incoronare suo figlio dall'arcivescovo di York. È un gesto di sfida che gli amici, ma di sfida clamorosa perché per antichissima tradizione l'incoronazione del re d'Inghilterra è un privilegio esclusivo dell'arcivescovo di Canterbury. Qui il Papa scrive ai vescovi e ai chierici inglesi vietando loro chiaramente di partecipare alla cerimonia, ma il sovrano ignora tranquillamente l'ordine del Papa. Il 14 giugno del 1170, nella chiesa di San Pietro a Westminster, Ruggero Pont-l'Évêque, vescovo di York, il vecchio nemico di Tommaso, pone la corona del regno d'Inghilterra sul capo del figlio tredicenne di Enrico. Il Papa dichiara Ruggero sospeso dalle sue funzioni e minaccia così di lanciare su tutto il paese l'interdetto. E questo per Enrico II è un rischio grosso, ma veramente grosso. Infatti il popolo è scontento oltretutto delle sue iniziative e parteggia per lo più per Tommaso. Se venisse privato dei sacramenti la ribellione sarebbe inevitabile. Così il re finisce per accettare le proposte di riconciliazione e sottoscrive un accordo che consente all'arcivescovo a Tommaso di tornare a Canterbury. Tommaso però non si fida. L'accordo prevede infatti, tra le altre cose, la restituzione dei beni confiscati alla chiesa di Canterbury. Ma i funzionari, incaricati di attuare i patti, trovano un sacco di pretesti per tirarla alla lunga. Nel frattempo però le minacce nei confronti del nostro santo e anche di chi lo segue si moltiplicano. La pace è praticamente fatta a parole, ma nei fatti il clima è sempre più pesante. A questo punto Tommaso decide di accettare fino in fondo il proprio destino e di fare ritorno in Inghilterra. «Sono ormai 6 anni che la mia chiesa è senza pastore», dice agli amici che cercano di dissuaderlo, avvertendolo del pericolo che corre. E qui, e soprattutto nella preghiera anche, dobbiamo riconoscere che questo santo viene aiutato a prendere una decisione così grave. Sapeva benissimo che tornando in Inghilterra lui avrebbe dato la vita, però lo fa perché è quello che il Signore vuole in quel momento. Accetta questa, diciamo, questa scommessa, se vogliamo, no? L'ultimo gesto, comunque, prima del ritorno, è la scomunica combinato a Ruggero di Pont-l'Évêque, il vescovo che ha incoronato il figlio del re. Il primo dicembre del 1170 sbarca Sandwich, il nostro santo, e una moltitudine traboccante lo attende al porto. Lo accoglie con canti, grida, pianti di gioia. Tommaso è commosso e abbraccia tutti quelli che gli si fanno vicino. I soldati del re, però, avvisati dello sbarco, disperdono bruscamente la folla, lanciando all'arcivescovo e ai suoi oscure minacce. L'indomani, Tommaso si incammina verso Canterbury. Due ali di popolo festante lo accompagnano per tutto il percorso. La gente gli si accalca intorno da ogni parte. Non ha mai avuto un seguito tanto numeroso e affezionato. E man mano che la notizia si sparge, uomini e donne arrivano dai villaggi vicini, gli gettano i mantelli ai piedi e lo accompagnano con canti e preghiere. L'ingresso nella città è un trionfo, cari amici. Le strade sono addobbate a festa, le campane suonano a distesa, nella cattedrale sono stati esposti i paramenti solenni. Tutti gli abitanti si sono riversati nelle strade, si inginocchiano al suo passaggio, cantano, ballano. I monaci lo ricevono piangendo per la commozione. Ma la festa, come possiamo immaginare, dura poco. Il giorno seguente Ranulfo di Broc, quello stesso che aveva cacciato dal paese amici di Tommaso 6 anni prima, gli si presenta davanti e gli ingiunge minacciosamente di assolvere della scomunica i vescovi di Londra e di York. Tommaso non si scompone, sarà ben lieto di farlo appena essi avranno chiesto perdono dei loro atti. Furioso per il rifiuto, Ranulfo se ne va, ma non è tipo disposto a rassegnarsi. Per qualche settimana la vita sembra riprendere quasi normalmente. Però ogni volta che Tommaso si sposta è accompagnato da folle esultanti e questo non fa che accrescere l'ira dei suoi nemici, finché si giunge l'attacco frontale. Poco prima di Natale i vescovi scomunicati si recano in Normandia da Enrico II per nominare insieme a lui, contro tutte le regole canoniche, alcuni nuovi vescovi. Non potevano farlo. Durante l'incontro raccontano al re che Tommaso ha scomunicato tutti quelli che erano presenti all'incoronazione del figlio e sta girando per il paese seguito da folle immense, aizzando il popolo alla ribellione. Non era così. Esclama il re, e questa è la frase che purtroppo farà scattare il suo assassinio. Dice il re: «Ecco un uomo giunto alla ricchezza dopo essere arrivato alla mia corte senza un soldo. Io ne ho fatto un personaggio importante, lui ha tradito me e i miei, e non si trova nessuno che abbia il coraggio di vendicare il mio onore oltraggiato». E fu una frase funesta questa, che di cui si pentì amaramente Enrico II. A questa scena assistono fra i tanti quattro cavalieri, che sono Rinaldo Fitzurs, Guglielmo di Tressy, Ugo di Morville e Riccardo il Bretone. Udite le parole del re, si lanciano fuori dalla sala e vanno verso l'Inghilterra decisi a vendicare l'onore del sovrano. E la notte di Natale, pensate. L'indomani mattina, Santo Stefano, Enrico, informato della precipitosa partenza dei quattro e intuendone le intenzioni, spedisce di gran carriera a Canterbury un suo cavaliere con l'ordine di proteggere Tommaso. In fondo gli è sempre stato legato, l'ha sempre apprezzato e stimato. E si pentirà molto di questa sua frase. Comunque questo cavaliere non arriverà in tempo, come vedremo. Il 29 dicembre i quattro cavalieri si presentano al palazzo dell'arcivescovo. I quattro cavalieri sono questi quattro di cui abbiamo parlato poco fa, e pretendono di essere condotti alla presenza di Tommaso. Senza preamboli lo accusano di essere nemico del re e dello Stato e concludono con un secco invito a lasciare l'isola al più presto. Qui riportiamo proprio il colloquio finale sulle testimonianze di Edoardo Grimm, di cui abbiamo parlato poco fa. Risponde Tommaso a questo invito: «Basta, ho riposto la mia speranza nel re del cielo, che ha sofferto in croce per i suoi. Non ci sarà più un mare fra me e la mia chiesa. Non cerco di fuggire, e chi vuole trovarmi mi troverà qui, ma il re non avrebbe dovuto dare questi ordini». Gli rispondono: «Questi sono gli ordini del re nostro Signore e noi li eseguiremo. Invece di rispettare la maestà del re, vi siete abbandonato al vostro istinto violento e avete cacciato ignominiosamente dei ministri e dei servitori della Chiesa». Risponde Tommaso: «Chiunque oserà infrangere i precetti della sede apostolica e contesterà i diritti della Chiesa di Cristo, costui, chiunque sia, non posso perdonarlo». Rispondono: «Hai parlato a tuo rischio e pericolo». Tommaso dice: «Siete venuti per uccidermi? Ho affidato la mia causa nelle mani del giudice supremo. Le vostre minacce non mi turbano». E conclude il colloquio Rinaldo e dice: «Voi tutti», rivolgendosi minaccioso ai presenti, «tenete custodite quest'uomo, che egli non fugga finché il re non abbia avuto la sua giustizia». E sono circa le 5 del pomeriggio del 29 dicembre 1170. È già molto buio. I monaci di Canterbury sono riuniti nella cattedrale, illuminata da decine di fiaccole per la recita del Vespro. Insieme a loro moltissimi abitanti della città pregano per il loro arcivescovo. Non possono sentire i rumori e le grida che provengono dal monastero, dove i quattro cavalieri sono entrati con un gruppo di armati sfondando una porta, anche per la pioggia. Tommaso però ha fatto in tempo a uscire e a raggiungere la chiesa, dove intende e vuole partecipare alla preghiera della sua gente. Come entra, tutti gli si fanno incontro, si rallegrano perché lo temevano morto. Lui si dirige in silenzio verso l'altare. Non ha ancora finito di salire i gradini che una voce risuona terribile dalla porta del chiostro e dice: «Dov'è Tommaso Becket, traditore del re e del regno?» Terrorizzati, i presenti fuggono, rimangono solo l'arcivescovo e quattro monaci. Riporto le testimonianze di Edoardo Grimm, il monaco che è rimasto con lui. Questo è il colloquio. «Eccomi», dice Tommaso, «io non sono un traditore del mio re, sono un sacerdote. Che cosa vuoi da me? Sono pronto a soffrire per colui che mi ha riscattato a prezzo del suo sangue. Non fuggirò davanti alla minaccia delle vostre spade, come non sacrificherò mai la giustizia». Dicono i soldati: «Perdonate coloro che avete scomunicato e ristabiliteli nelle loro funzioni. Tommaso risponde: non si sono pentiti, non li assolverò. Allora morirete, dicono i quattro cavalieri. Tommaso dice: sono pronto a morire per il mio Signore. Il mio sangue salvi la libertà della Chiesa di Dio e la pace. Ma in nome di Dio non fate del male a nessuno dei miei chierici e dei miei laici. Lasciateli partire. Insomma, queste ultime parole, i quattro cavalieri si gettano sul nostro santo. Il primo a colpire è Rinaldo, ma il suo colpo è deviato dall'unico monaco rimasto, che è proprio Edoardo Grimm. Guglielmo di Tressì vibra il secondo fendente, mirando alla testa, poi si accaniscono tutti gli altri. L'arcivescovo cade a terra in una pozza di sangue con il cranio spaccato. E la notizia del martirio e dell'assassinio si sparge in un lampo. Tutti si chiudono in casa, impauriti. Solo i poveri, osserverà Herberto di Bosan, un altro biografo contemporaneo di Tommaso, scriverà: solo i poveri e solo loro si lanciano verso la cattedrale e si gettano in ginocchio a rendere l'ultimo omaggio al pastore che amavano. Il giorno dopo, il corpo dell'arcivescovo Tommaso Becket viene sepolto sotto il pavimento del tempio. Sembra, cari amici, la vittoria di Re Enrico. In realtà, man mano che la notizia del martirio si diffonde, una moltitudine di fedeli incomincia a recarsi in pellegrinaggio alla tomba del vescovo martire, prima dei dintorni di Canterbury, poi via via dai paesi sempre più lontani. Quando Enrico II riceve la notizia, ne soffre sinceramente. Pensate che sarà 3 giorni chiuso nella sua stanza senza uscirne, e piangerà sinceramente di quella morte. Anche perché, se anche non è direttamente responsabile, anzi in qualche modo abbiamo visto, ha cercato di impedirla, tutti, dal popolo inglese al re di Francia al Papa, tutti la debitano a lui. Vedono in lui il mandante morale, se non materiale, dell'omicidio. E l'ostilità generale si rivolge contro di lui. Il Papa allora lo colpisce con l'interdetto. Il popolo inglese minaccia di ribellarglisi contro. Insomma, per ottenere il perdono, Enrico è costretto ad abrogare gli articoli delle Costituzioni di Clarendon, Costituzioni che Tommaso e il Papa non hanno approvato, e anche a restituire tutti i beni sottratti alla Chiesa e a sottoporsi a pubblica penitenza. E qui, il 21 febbraio del 1173, Alessandro III proclama Tommaso Becket santo della Chiesa di Dio. E come è vero che il sangue dei martiri è seme di nuovi cristiani e di conversioni, pensate che il 13 luglio dell'anno dopo Enrico II, scalzo e con l'abito del pellegrino, si reca a piedi alla tomba del suo vecchio cancelliere. Dopo essersi inginocchiato e aver pianto sinceramente a lungo, riceve dai vescovi e dai monaci presenti i colpi di frusta previsti per la penitenza. Non abbiamo tempo per poter vedere insieme il percorso di questo re verso la tomba di San Tommaso Becket, ma vi assicuro che è commovente il pianto del più sincero pentimento dal cuore di quest'uomo, di Enrico II. È stato comunque un grande, al di là di tutto. Si è reso conto, insomma, ha ottenuto veramente per lui la grande grazia che gli ha fatto il suo amico San Tommaso, è proprio la conversione del cuore. E qui, per più di 3 secoli, la tomba del nostro santo rimane meta di pellegrinaggio e di devozione per tutti gli inglesi. Ma purtroppo, come sappiamo, nel 1534 un altro Enrico, re Enrico VIII, si proclamerà capo della Chiesa inglese, e un altro Tommaso, che è Tommaso Moro, anch'egli cancelliere del regno, rifiuterà di riconoscerlo come capo della Chiesa e pagherà con la testa la sua opposizione. Voi pensate, perché diciamo questo? 4 anni più tardi, Enrico VIII, 4 anni più tardi della morte di San Tommaso Moro, quindi 1535, Enrico VIII darà ordine che la tomba di Tommaso Becket, cioè di questo nostro santo di cui abbiamo parlato, che la sua tomba sia distrutta. Quel che resta del suo corpo viene bruciato e le ceneri, mescolate a polvere da sparo, disperse nel vento con un colpo di cannone. Non solo. La festa di San Tommaso Becket verrà cancellata dal calendario della Chiesa riformata inglese. Ma noi possiamo solo concludere dicendo, cari amici, che la Chiesa cattolica continua a venerare l'uomo che ha sacrificato la sua vita per ricordare al suo re che, per quanto grande fosse il suo potere, non poteva impossessarsi della salvezza che Gesù ha portato agli uomini e che la Chiesa continua a custodire e ad annunciare nei secoli.